Fottu di ricordi, ex passo MC, con l'extratto MC, contro chi ha criticato il nostro lavoro. Ora Terror Rebel Sound, parola al mio collega. Sina. Back to back. Sientine. Senti, senti. Vai Uba, spacca tutto. Senti ciò che dico, ma non far finta di essere sordo. Se si ingordo vino torreta, sappi che a volte troppa luce può accecare, compa. Tienilo sempre bene scritto mentre vi presenta, che per quanto tu possa spaccare, se non hai rispetto resti sempre dilettante. Questo ho imparato già da piccolo, i miei primi passi nella musica, ed ho scoperto che chi gira con i paraocchi non fa niente, ma lo stesso giudica. Non può meritare considerazione alcuna, ma io ho la fortuna di vivere con gente che non ha lasciato il senno sulla luna. E se continuo a esprimere il mio malcontento come quello della mia generazione, è perché vivo grazie a una passione che mi dà forza per comunicare ciò che provo ogni giorno in ogni mia canzone. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Sentire balena, luba loco, ora con furore indietro, tornati al loro primo vecchio grande amore. Trovi ora maturati come grandi more, sempre rispettosi e sempre puri nel cuore. Ci riferiamo a chi ha sempre criticato, come una mela marcia ci aveva considerato. Ma fare i conti bello mio è sbagliato, perché il risultato non era quello pensato. Il colpo di gran cassa dicevi non sentivo, ma più parlavi più io non capivo. Un sacco di cazzate hai voluto raccontare, ora zitto ogni ora impara bene ad ascoltare. Come noti il nostro stile è tutto cambiato, ascolta e poi rifletti su quanto è malato. Il nostro lavoro è senza dubbio tutto vero, non come le tue cazzate in bianco anche nero. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Un balocco ribellino, ritorno troppo vivo di fiamma, con la più vasta gamma di emozioni che tu abbia mai visto, scongiurando l'infamia manca ad essere anticristo. Misto di rabbia e sensazioni, porzioni di un livello che non abbasso. Prodotto di origine controllata, garantito vecchia scuola, tratto e spasso. Scasso, qualunque scarso si ammasso, rime in un lasso di tempo indefinito, prima che dalla musica legati da un legame pressoché infinito. Non aver paura di alzare il tuo dito, è tempo di reagire e di seguire questo invito. Lasciati prendere, non lasciare che ti prenderò per fallito. Siamo cresciuti nel cuore e nell'anima, i nostri testi parlano di tutto, dall'amore alla satira. Ora prova a giudicarci, pronti ora siamo a ribellarci. Non siamo più piccoli bambini che avevano il timore di contraddire questo omone, così grande ma anche così coglione. Io voglio imporci il suo credo, vero come l'ibrida di Pinocchio. Sarà tu il bamboccio bello mio, di nuovo in combination un bel io. Ci trovi più forti, ancora più tosti, da rec a rap senza presupposti, facendoci sempre i cazzi nostri. No come a te che ho voluto giudicare, straparlare, solo cazzate raccontare. Non c'era un cazzo di verità nelle tue parole, mister, tutto so fare. Noi sempre con i piedi per terra, evitando sempre di non far la guerra. Super convinti di quello che facciamo, con estrema passione e soprattutto con una semplice regola: non giudicare le persone. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione. Canto una canzone, una speranza, una passione, cercando di riuscire a uscire vivi da sta situazione. Vivo per portare avanti una missione, per diffondere rispetto a tutta sta popolazione.